Siamo in collegamento con la nostra Anna Uras, che si trova in via Fioravanti 24 a XM. Buongiorno Anna. Sì, un buongiorno Alessandro, sì, siamo a XM24, in questo momento precisamente siamo al fresco nascosti nella sede di Radio Spore, la radio che è nata da poco, XM24. Ricordiamo, una radio in AM e la frequenza è 1359, e questo lo so perché ho studiato, ecco, diciamo così. E tu invece come mai ti sei alzata così presto? Sì, una cosa incredibile, perché sono qua dalle 8 più o meno, quindi prestissimo per me, prima dell'alba, e mi sono lasciata così presto perché da oggi sono iniziate le colazioni resistenti a XM24. Sono iniziate questa mattina perché ieri ovviamente era il giorno, diciamo, di scadenza per lo sgombero, secondo la lettera appunto inviata a XM24, quindi da ieri potrebbero sgomberare in qualsiasi momento, e quindi da questa mattina in avanti, tutti i giorni tranne la domenica, perché la domenica non si sgombera, ci sarà. È il giorno del Signore, è il giorno del Signore. ed è anche il giorno in cui potremmo dormire. Gli altri giorni dalle 6:30 del mattino, quindi in realtà non sono stata così brava. Comunque con le 8:30 si fa colazione XM, piscina, DJ set. E niente, si ritrova qua. Tra l'altro, appunto, questa iniziativa segue quella che è stata la serata di ieri, che mi dicono essere stata molto partecipata. Tu c'eri? Sì, io c'ero, è stata partecipatissima in modo incredibile, diciamo, per essere questo momento dell'estate a Bologna, ma in generale, diciamo, una serata, uno dei giovedì più partecipati forse a cui sia stata in questi 4 anni XM. Cioè, pienissimo di gente, pienissimo anche di iniziative, perché oltre al classico giovedì di XM c'era la musica, un misto di musica e parole in realtà, perché c'erano anche i reading, c'era Walsh Kukowski, c'era Booming Uno, insomma, piena anche di iniziative e di gente in piscina di nuovo, perché comunque si muore di caldo. Certo, e so che tu sei in compagnia di un Andrea di XM. Di un Andrea di XM, ovviamente, sì. Che è qui con me, intanto te lo passo, vi faccio salutare, poi magari iniziamo anche a farci raccontare qualcosa da lui, perché ieri, oltre a tutte le varie iniziative, c'è stato anche il terzo aggiornamento pubblico sulla situazione di XM24. Certo. Allora, buongiorno Andrea. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, come, raccontaci un po', appunto, quali sono gli aggiornamenti, un po', insomma, li abbiamo seguita questa vicenda fin da 2 anni fa, quando è scaduta la convenzione, invece le ultime cose quali sono? Allora, le ultime cose, parto dall'ultimo lunedì, che era il giorno in cui in Consiglio Comunale si votava per stanziare i fondi 2 milioni di euro per il progetto di co-housing che vorrebbero fare qua in via Fioravanti 24. Abbiamo interrotto più volte il Consiglio Comunale, anche tirando banconote con la faccia di Merola sopra. C'è stata un po' di bagarre, addirittura Persiano del PD che ci ha detto che siamo degli squadristi. E in ogni caso sì, abbiamo interrotto parecchie volte, però comunque hanno votato e il voto è stato positivo per lo stanziamento di questi soldi. Certo, ecco, negli ultime settimane voi avete comunicato che avreste bisogno di un paio di mesi, se non sbaglio, perché avreste individuato uno spazio privato, giusto? È così? Sì, noi abbiamo avuto degli incontri in questura, con il questore, l'assessore Lepore e il presidente di quartiere Ara, e ci hanno detto che appunto loro non vogliono assolutamente darci uno spazio pubblico comunale, ma che se avessimo sentito il privato, avessimo sondato un po' la disponibilità e tutto, avrebbero forse fatto qualcosa per riuscire a trovare una quadra e riuscire una mediazione. Il problema è che comunque non si fa in 2 settimane, ma ci vogliono almeno 2 mesi, quindi speravamo che per settembre, cioè ci dessero tempo fino a settembre, anche perché siamo con le mani al collo da parecchio tempo, quindi... Certo, e invece questi 2 mesi non ve li vogliono concedere, no. Anche se in realtà noi abbiamo sentito un altro Andrea lunedì scorso e ci diceva, in realtà prima che partano veramente dei cantieri in via Fioravanti 24 passeranno 8-9 mesi. Ah beh, quello sicuramente, sappiamo benissimo, lo vediamo qua dal nostro parco, che i cantieri qui in Bolognina sono fermi da parecchi anni e quindi immagino che non parta il 2 agosto o l'8, quando pensano di venire, non lo so. Certo, voi come state affrontando allora questa attesa? Allora, noi stiamo affrontando questa attesa cercando di richiamare più gente possibile qua, facciamo delle colazioni resistenti dalle 6:30 davanti al cancello di XM, anche per farci vedere, per far vedere che comunque è partecipato e siamo in tanti e tante. E poi ci sarà un po' di iniziative, quest'oggi, questa sera c'è un teatro comico fatto da 3 ragazze con musica e teatro. La domenica ci sarà un DJ set in piscina di Bologna Elettrica e lunedì il pool party dei Bologna Punks e letture degli iscritti che ci sono arrivati per il 29 giugno. Certo, quindi insomma non siete demoralizzati, continuate con iniziative. No. Assolutamente, questo spazio continuerà a vivere fino al giorno in cui non arriveranno qua sotto. Certo. Beh, io ti ringrazio, se mi puoi ripassare Anna, certo. Intanto grazie mille, ciao, grazie. E non so se Anna volevi chiedere qualcosa anche tu oppure siamo a posto così. Sì, no, diciamo, aggiungerei, magari ora faccio spiegare meglio ad Andrea, comunque ieri si è parlato anche di come ci si sta organizzando proprio in vista dello sgombero, quindi oltre al fatto che continuano tutte le attività, si stanno appunto raccogliendo i numeri di telefono per segnalare appena lo si saprà appunto il giorno dello sgombero, e ci si sta organizzando anche per una resistenza creativa, quindi chiederei ad Andrea di raccontarci un po' anche di questo. Sì, per quanto riguarda come sapere il giorno dello sgombero, quando arrivano e tutto, abbiamo appunto chiesto a tutte e tutti di lasciare il numero di telefono e verranno avvisati. Inoltre ci saranno continui aggiornamenti su social network autogestito Mastodon, Dida, e per quanto riguarda quel giorno chiameremo un presidio in Piazza dell'Unità e poi vedremo come andrà, sicuramente noi resisteremo. Certo, sperando che quel giorno non arrivi, ecco, diciamo così. Sperando quel giorno non arrivi, assolutamente. Certo. Dipende tutto dal comune, se si vogliono prendere le responsabilità o comunque cercare una mediazione, noi l'abbiamo cercata in ogni modo, abbiamo avuto tutte le porte chiuse, speriamo in qualcosa. Certo, ricordiamo che XM24 è uno degli ultimissimi posti rimasti in città di un certo tipo, spazi di libertà, quindi come dire, la gravità di un eventuale sgombero sta anche in questo, non solo nel valore di per sé di questo spazio, delle tante attività che ospita, ma anche per il fatto che insomma questa città si sta desertificando da questo punto di vista, e scelta azzeccatissima secondo me quella della metafora del nulla che avanza, della storia infinita. Grazie mille ad Andrea, grazie mille anche ad Anna, e noi ovviamente come Radio Città Fujiko continueremo a seguire questa vicenda, perché insomma ci teniamo molto a questa realtà.